C'è un incremento sostanziale, soprattutto per la vendita degli smartphone, che abbracciano sicuramente un segmento più completo. I tablet sono in costante crescita e c'è un interesse particolare, soprattutto per gli Apple e gli Acer, i Samsung e gli Asus. L'Acer Iconia sta prendendo piede rispetto all'Apple, però l'iPad 2 adesso che è entrato in commercio ha sicuramente dato una svolta al mercato dell'Apple. Avete notato un calo di vendite di netbook a favore dei tablet? Assolutamente sì, il netbook stanno perdendo quote di mercato. Un altro prodotto che ha perso piede e è andato bene anche nel 2009-2010 sono gli iBook Reader. Oggi con l'avvento di questa nuova tecnologia, smartphone e tablet, hanno perso piede ambedue.